America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Si apre una settimana di riflessione su quel che ha detto il presidente Barack Obama la settimana scorsa, di riflessione per l'andamento dei titoli finanziari che la settimana scorsa di nuovo sono stati un po' sotto pressione e poi si sono ripresi. Ma voglio anticiparvi che abbiamo con noi Corrado Passera, amministratore delegato di Banca Intesa San Paolo, di passaggio qui negli Stati Uniti per un giro da Boston a New York con analisti finanziari, giornalisti americani, convegni a porte chiuse. E dunque ai nostri microfoni abbiamo Corrado Passera, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Intanto ci dica esattamente che cos'è un roadshow. Un roadshow è un fior di esame, è un esame che ogni trimestre bisogna fare con i principali investitori, analisti, gente che ha comprato tue azioni o che può considerare di farlo e che vuole sapere tutto sull'azienda che gestisci, gente che ti fa le domande giuste e che non accetta nessun tipo di incertezza. E quindi l'hanno messa un po' sulla griglia chiedendo che cosa succede nella banca, che no, problemi. Ma poi è molto, molto bello, è molto utile, è molto challenging come si dice qui in America, è gente che si prepara e che ti tira fuori una vera comprensione della banca in modo tale che tu stesso tante cose che non, magari non hai messo a fuoco grazie a questi incontri capisci fino in fondo. Quindi è un vero esame. Ecco, e da questo esame quali sono state le domande più difficili? Ma in realtà la banca è guardata con grande rispetto perché ha, diciamo, seguito tutte le lezioni della crisi e passa attraverso la crisi tra le banche più forti e questo viene riconosciuto, questo è una così da soddisfazione per chi rappresenta la banca. Certamente grande attenzione sull'Italia, grandi dubbi anche sull'Europa, sulla crescita economica sia del nostro paese che quella europea, le implicazioni per le banche, come le banche possono reagire a una situazione sicuramente non facile, soprattutto le banche dell'economia reale, le banche come la nostra, però credo, spero che abbiamo dato le risposte giuste. Fondo Monetario e OCSE entrambi parlano di debolezza generalizzata dell'economia mondiale e anche dell'Italia. Ecco, come hanno reagito gli analisti a questo quadro? Certamente, e questo non è solo una loro preoccupazione, è una preoccupazione per tutti noi, da troppi anni l'Italia non cresce abbastanza, l'Europa non cresce abbastanza, questo si porta con sé il problema numero uno che è quello dell'occupazione. L'emergenza numero uno in Europa, ma sicuramente in Italia, è quella della creazione di nuovi posti di lavoro. Dobbiamo far crescere di più l'economia e la crescita di lungo termine viene dallo sforzo combinato di tutti, non soltanto né delle imprese, né delle banche, né della politica, né del mercato internazionale. Ecco, qualcuno dice però che anche forse le banche non hanno fatto abbastanza nell'erogazione del credito. Yves Mersch della BCE ha detto che sì, si è vista anche una ripresa del credito interbancario, ma come si dice in americano, the jury is out. È vero, c'è una responsabilità delle banche in questo? Ma questo vale molto come discorso paese per paese. In alcuni paesi c'è stato vero e proprio credit crunch, fortunatamente nel nostro non c'è stato. Sicuramente c'è stata molto inferiore domanda di credito, perché quando cala la produzione, l'esportazione, il fatturato, gli investimenti, è chiaro che cala la domanda di credito. Un segnale che tutti hanno preso con grande interesse è l'incremento dei volumi di credito che è avvenuto alla fine del secondo trimestre intorno a giugno. Se questo dato diventasse un trend, sarebbe un indicatore forte di una ripresa che da tanto tempo aspettiamo e che forse è stata messa in moto dall'aumento delle esportazioni facilitato dalla svalutazione dell'euro. Ecco, debolezza generalizzata, su questo direi concordano tutti, non tutti concordano sulle ricette per uscirne. L'America, che è favorevole a misure di stimolo, a misure espansive per sostenere questa crescita debole, l'Europa che invece si sta già muovendo soprattutto in Germania e in Gran Bretagna verso un programma, diciamo così, più del rigore. Come la vede questa dicotomia? Allora, innanzitutto non ci deve essere dicotomia e non accetto che si debba scegliere tra rigore e sviluppo. Dobbiamo naturalmente tutti difendere i conti pubblici, come nel nostro paese, devo dire, negli ultimi tempi è stato fatto con grande capacità, però noi non dobbiamo smettere di investire per creare futuro. Cioè noi dobbiamo trovare i mezzi e ci sono le possibilità per continuare a costruire le ragioni della produttività e della competitività che possono portare alla crescita del paese. Cioè parte della spesa corrente deve diventare investimenti, parte degli sprechi devono essere eliminati, parte dell'evasione deve essere recuperata, parte dei tanti progetti già finanziati e che giacciono dimenticati devono essere messi in moto. Detto questo, le due iniziative di Obama, 50 miliardi ben spese in infrastrutture strategiche, ma soprattutto 200 miliardi di bonus fiscale a chi investe nel corso dell'anno prossimo, possono essere uno shock estremamente positivo ed efficace per l'economia. Andrà definito bene che tipo di investimenti, perché naturalmente non bisogna disperdersi in troppe direzioni, ma a mio parere è una mossa assolutamente corretta, forse un po' in ritardo, ma sicuramente corretta. Ecco, c'è anche un po' di polemica sugli aumenti delle tasse, scadono i tagli di Bush alla fine dell'anno, qualcuno dice che la vera partita in gioco è quella. Ma c'erano stati degli alleggerimenti fiscali oggettivamente ingiustificati alle classi più ricche della società. Oggi la classe media è quella che soffre di più, per non parlare degli strati più poveri della società. Quindi recuperare degli alleviamenti di tasse oggettivamente non giustificati nella situazione non può che essere condiviso. Stress test funzionano o non funzionano? È stata un'ottima idea farlo. All'inizio eravamo tra le pochissime banche che avevano dato il loro pieno appoggio a un esercizio di trasparenza di questo tipo. Credo che l'esercizio, sia quello americano prima che quello europeo dopo, abbiano contribuito a dare più tranquillità al mercato. Per quanto riguarda il sistema Italia, sono stati applicati parametri decisamente rigorosi e quindi confermo che è stato fatto un esercizio di grande coraggio e di grande qualità. Certo, nel valutare la solidità del sistema bancario in tutti i paesi è importante guardare ai requisiti di capitale, ma è altrettanto importante guardare a indebitamento, a liquidità, e se fossero aggiunte anche queste variabili il nostro paese ne risulterebbe ulteriormente relativamente più forte di altri. Ecco, mi dicono che gli analisti nel corso di questi roadshow scrivono, prendono nota di quel che l'interlocutore dice, delle promesse fatte sui conti. Ecco, cosa gli ha detto che loro hanno scritto, ha preso nota? Beh, le promesse sono quelle che abbiamo fatto in occasione della presentazione dei risultati e riguardano le previsioni sia per quest'anno, sia l'impegno a elaborare un piano di impresa per i prossimi 3 anni che permetta alla banca di migliorare ulteriormente i risultati anche in un ambiente di tassi bassi. No, ma quello che lei dice è una cosa molto importante, perché dimostra la serietà di questi esercizi, di questi incontri. Non è che si incontrano queste persone una volta, una tantum, e lì finisce. Si incontrano queste persone con regolarità e bisogna rendere conto di ciò che si è impostato, di ciò che si è previsto, di ciò che si è descritto. Questo tipo di accountability, come la chiamano qui, che è quella che tutta un po' la classe dirigente dovrebbe avere nei confronti delle aziende, dell'opinione pubblica, è una disciplina molto pressante, ma sicuramente molto utile. Bene, allora siamo quasi alla fine, ma Corrado Passera conosce l'America non solo perché è venuto in questi giorni, ma perché ci viene da anni, perché ha studiato in America, perché ha un rapporto particolare dell'America. E dunque, Passera, noi così amiamo parlare dei rapporti degli italiani con l'America, italiani come lei. Beh, quando uno fa l'università in un paese ci rimane molto legato. Poi io sono rimasto legato alla mia università, sono nell'advisory board della scuola e quindi c'è un legame forte. Il fatto di venirci frequentemente aiuta, il fatto di avere amici qui, il fatto di avere investitori. Molti dei nostri azionisti sono americani, cioè noi molti degli investitori istituzionali che contano per oltre il 50% del capitale della banca vengono dai paesi anglosassoni, in particolare dall'America, quindi il rapporto è forte. È un paese purtroppo che ha dell'Italia ancora una conoscenza limitata, stereotipata, un po' vecchia. Noi dobbiamo fare di più e di meglio per far conoscere le forze del nostro paese, che sono forti, che sono tante, che vanno dal basso indebitamento delle famiglie e delle imprese alla solidità del risparmio delle famiglie, alla diversificazione dell'economia, alle forze che abbiamo in molti settori che stanno crescendo in tutto il mondo, al fatto che non abbiamo avuto la bolla immobiliare, al fatto che abbiamo gestito bene i conti pubblici, al fatto che abbiamo delle riserve colossali di miglioramento che possono farci cavalcare potenzialmente la prossima fase di crescita meglio di molti altri paesi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Pensate che i Band of Horses, che è un gruppo rock di Seattle, sono andati fino a Tromsø in Norvegia per suonare una delle loro canzoni di matrimonio più conosciute. E dunque a questo viaggio della Band of Horses dedichiamo la canzone del giorno, Mary Song. I'll marry my lover in a place to admire. I don't have to even ask her. I can look in her eyes and thank God that I am forgiven, or thank all of my friends to say a bit true, or they forgotten. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.